Radio 24 Reportage. Milano Manila, in chiave di violino. E filippine, gente filippine, quando hanno tempo libero, vanno, organizziamo sempre sabato e domenica, organizziamo feste per loro, per tutto loro. Quindi vogliamo dare un divertimento per tutte le persone che c'è qua, perché noi lo sappiamo, molte gente filippine che lavorano come domestici. Lunedì fino a sabato pomeriggio lavorano. Vita dura, dice lei. Vita dura, quindi vogliamo dare un divertimento per loro. Quindi organizziamo questi eventi per tutte le persone che lavorano dura. Perché sai come la mia mamma, abbiamo l'impresa di pulizia, no? Però la mia mamma, a parte, c'è un part time e lavora anche a casa. Quindi la mia mamma e anche le gente del condominio dove lavorano vengono a vedere della nostra festa. Quindi italiani vengono? Italiani vengono, sono italiani, sono ricchi, no? Non l'abbiamo pensato mai di loro che vengono della nostra festa, però vengono 2 o 3 volte l'anno, sono venuto. E poi per italiani e nostri amici dal bar, nostri amici italiani vengono a vedere i nostri spettacoli, concerti. Questa è la storia di un ragazzo che un giorno fa un sogno. Si chiama Direk Henrik Andrin. È il figlio di una donna delle pulizie di una ricca famiglia milanese. È il figlio di una donna filippina che sa dare coraggio. Direk conosce la gente della sua comunità, i filippini che vivono a Milano. Vite dure, attraversate da tanto lavoro, nostalgia per la propria casa e voglia di stare insieme nei giorni pochi, liberi. Questo è l'inizio di un viaggio. Sono Henrik Andrin, ho 21 anni. Ho sognato una volta che ho sognato tutta gente, tanti gente in un palazzetto come quella. Poi dopo una settimana è successo una calamità nelle Filippine. Quindi ho pensato come possiamo aiutare queste gente. E ho cominciato con quella, abbiamo parlato con gli altri business dei filippini di organizzare un evento grandissimo per quello. Lahat po tayo ay proud sa kanya. Hoy, sino yun? Because she recently released her debut album entitled My Amore. Friends, please welcome Abigail! Ottomila persone vanno a vedere Abigail Dorado al Parasharp. Vengono da tutta Italia, anche da alcune città d'Europa. È una star di un mondo che abbiamo in casa, ma non conosciamo. Poi è cominciato quello, in un giornale, poi c'è un giornale filippino che mi ha chiesto se posso entrare della loro società per organizzare eventi. Quindi lì gente hanno cominciato a chiamarmi per organizzare tutti i tipi di eventi. Abigail, la chiamano la Pausini delle Filippine. Ha 19 anni, un viso bellissimo e una dolcezza infinita e un grande talento. Illuminarti l'anima nel blu dei giorni tuoi più fragili, io ci sarò come una musica, come domenica di sole e d'azzurro. Un talento che la porta subito fuori dalla classica gavetta che gli immigrati clandestini o no fanno qui in Italia. Mi chiamo Abigail Dorado, no? Poi ho 19 anni. Sei giovanissima. Grazie. E tu sei stata qua in Italia per un periodo, hai lavorato in Italia prima di diventare... Sai che... Sì, sì, adesso abito qui a Milano, poi vado in giro in America o a Parigi, cioè dappertutto, sai, per fare questi spettacoli. Perché sei diventata una star delle, nella comunità filippina e nelle Filippine anche. Sì, sì, anche diciamo che non è così famoso, no, ma... Queste filippine qui a Milano mi conoscono. Ti conoscono, sì. Ti amano molto perché sono venute al palazzetto, al Palasciarpa, hanno riempito il Palasciarpa, sì, per vederti. Sì, sì. Poi l'anno scorso ho fatto un concerto, no? A Rolling Stone, Milano. E l'hai riempito? Sì. Qual è, secondo te, la ragione per cui ai filippini piace molto la tua musica? Beh... filippini piacciono musica pop, no? Poi piacciono queste canzoni come anche italiani, no? E con il mio canzone canto pop, cioè tutto il mio repertoire, sì. È pop, jazz, standards, comunque quasi tutto, canto. Tu fai anche dei mix culturali tra quella che è la tua cultura filippina e la musica internazionale? Sì, sì. Poi canto in tanti linguaggi, né? Come francese, italiano, inglese, spagnolo. E filippino? E filippino, sì, certo. E poi c'è la storia di Shiboom, una storia diversa da quella di Abigail. Arriva da clandestino, lavora come parrucchiere a San Donato. Quando lava i capelli, canta. My fate, and do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I've been told that salvation... Prima già lavoro di una parrucchiere qui in Italia. A Milano? In San Donato. A San Donato. Una parrucchiere perché senza documento e allora cerca altro lavoro. Quindi tu lavoravi come parrucchiere, nonostante tu fossi un grande parrucchiere, ti sei messo a lavorare in un negozio di parrucchiere qui a Milano? Quando ho avuto un documento tutto, sì, c'è tante opportunità, però il problema è il documento, no? Però adesso sono felice perché ho fatto parrucchiere così, altro casa, così andare l'altro. Canta quando lava i capelli Shiboom e ride e i giorni passano. E passano, ma il sorriso resta puro, perché Shiboom sente di essere fortunato e per questo ogni mercoledì va in chiesa a ringraziare Dio per tutta la fortuna che ha avuto dalla vita. E la fortuna, fin lì, è un lavoro da sciampista, una casetta piccina e un permesso di soggiorno. Il salto grosso Shiboom lo fa quando incontra Direk Renrik Andrin. Il manager bambino va a farsi tagliare i capelli e sente cantare Shiboom e la svolta. Shiboom è un cantante al giorno, lui è un parrucchiere che fa parrucchiere, però alla sera diventa un star, diciamo un star del palcoscenico, perché lui prima è un bravo cantante. Però abbiamo sentito quando mi stava tagliando i capelli, ho sentito una bella voce. Come mai non canta in nostra festa? È una volta, il compleanno di mia sorella, che sono venuto 700 persone. Lui ha cantato, tutte le gente l'hanno urlato per lui. Quindi ho detto, oggi sei diventato un star. I'm loving angels. Questa che vi abbiamo raccontato è la storia di una comunità che in Italia è formata da 95.000 persone in regola con il permesso di soggiorno e tanti altri che ancora vivono nella clandestinità. Ma per una volta tutto questo lo abbiamo lasciato fuori e abbiamo voluto entrare noi, in quelle ore pigre di domenica, quando Andrin, Shibum e quasi tutti i filippini accendono il karaoke e cantano. Cantano e si ritrovano, nonostante tutte le scosse che la comunità filippina ha dovuto affrontare in questi anni. La prima fra tutte quella culturale, iniziata negli anni 70, quando a partire dai villaggi filippini erano le donne. Quelle donne che avevano avuto un ruolo secondario nella società filippina e che arrivando in Italia ribaltavano tutto, con gli uomini a casa ad accudire figli e loro, attraverso le rimesse dall'estero, a mantenere mariti, figli, fratelli e nipoti. Ma questa è un'altra storia. She feels blessed to my bones.